gli incontri annuali di Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale quest'anno avevano in agenda, come spesso è successo negli ultimi anni, una valutazione anche delle operazioni, diciamo, di riduzione del debito, specialmente per i paesi più altamente indebitati e più poveri. Devo dire che complessivamente emerge una delusione dal lato della società civile per due motivi. Il primo è perché ancora una volta ci troviamo un comunicato finale sia da parte del G7 delle finanze, ma anche da parte poi della Commissione Sviluppo, che in un certo senso soprassiede la Banca Mondiale, dove si fa riferimento alla necessità di valutare con maggiore accortezza e probabilmente in futuro anche con nuovi parametri la sostenibilità del debito per questi paesi, ma in realtà non sono segnalati processi innovativi di cancellazione, ma soprattutto anche di ridefinizione di cosa è la sostenibilità del debito. Dico questo perché al momento, come ben sapete, il dibattito sulla cancellazione del debito dell'Iraq tiene banco da un punto di vista politico, come si può facilmente capire, e in questo caso si profila anche una cancellazione molto elevata, si parla di un qualcosa che potrebbe oscillare tra un 50% e addirittura un 90%. È chiaro che questo avviene per criteri di sostenibilità del debito rispetto a una situazione davvero insostenibile, ma anche rispetto a un caso politico molto particolare. Nel caso dei paesi più poveri invece, e questo è il secondo elemento di delusione, in realtà si profila un'ipotesi quanto mai diciamo importante per la società civile, perché è quello che è stato poi chiesto praticamente da 10 anni tramite grandi campagne internazionali, ossia una cancellazione del 100% del debito di questi paesi. Il principio e anche l'azione sarebbe enormemente innovativa, ma purtroppo ancora una volta non si è trovato un accordo su questo passo importante da fare, perché diciamo la domanda seguente non vede una risposta univoca da parte dei paesi donatori. Questa domanda attiene alla modalità con cui finanziare una cancellazione di questo debito da parte delle istituzioni multilaterali di Bretton Woods, cioè da parte di Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale. Per i 41 paesi più poveri parliamo di circa 37 miliardi di dollari da cancellare. Bene, l'elemento che divide in particolare Stati Uniti e Inghilterra riguarda la cosiddetta addizionalità, cioè gli Stati Uniti sostanzialmente sostengono che il debito si può cancellare anche subito, ma se si cancella questo debito ovviamente questo ammontare verrà scalato dagli aiuti allo sviluppo da dare anche a questi paesi allo stesso tempo, mentre il governo inglese veicola delle preoccupazioni, tra l'altro riprese da numerosi paesi IPI, che appunto fanno parte i paesi più altamente indebitati e più poveri nel mondo, e dice no, questa cancellazione deve avvenire, ma bisogna cercare delle risorse addizionali. La difficoltà di questa discussione è che purtroppo siamo molto lontani dal prefigurare un meccanismo davvero innovativo, non solo per il finanziamento di queste cancellazioni e non solo, come dicevo all'inizio, per una valutazione vera di qual è la sostenibilità del debito e anche andare a vedere qual è il debito legittimo oppure quello invece illegittimo, odioso, che è stato prodotto tramite operazioni illecite o tramite versamenti dai dittatori, ma l'elemento vero è come avere un sistema di finanziamento diverso per questa cancellazione e anche per l'aiuto allo sviluppo. Di questo in realtà si è iniziato a discutere in ambito Nazioni Unite tramite le proposte recenti del governo brasiliano e del governo francese, cioè la possibilità di tasse globali, un qualcosa che invece in ambito G7, ma soprattutto anche in ambito Banca Mondiale e Fondo Monetario, non viene affatto considerato, anzi viene allontanato quasi come un'eresia. Quindi questo è stato un dibattito, se vogliamo, mancante. È chiaro che la questione rimane aperta, perché l'emergenza debito sappiamo bene che rimane aperta, senza parlare allo stesso tempo, e di questo se ne è parlato un po' meno, dell'emergenza debito nei paesi emergenti. Il caso Argentina rimane ancora lì, ma questo attiene a tutto un altro negoziato da parte del Fondo Monetario Internazionale. In questo contesto la nostra campagna, insieme a numerosi gruppi a livello internazionale, chiede che si consideri anche un aspetto molto concreto, cioè che riguarda le riparazioni che decine di migliaia di persone nel sud del mondo, a nostro giudizio, dovrebbero avere dalle stesse istituzioni, perché a causa di progetti che specialmente negli anni 70 e 80 sono stati realizzati in contesti di conflitti, di guerre, ma di vere e proprie dittature militari, e parliamo di realtà che comunque sia sono diventate anche più problematiche proprio a causa di questi interventi presunti per lo sviluppo, ma in realtà contro lo sviluppo di queste popolazioni, e quindi la questione anche qui di chi ha beneficiato e chi no deve essere considerata. Anche questo aspetto manca, nonostante in diversi paesi, come anche in Guatemala, iniziano ad esserci dei processi anche istituzionali per andare a rivedere e aprire dei dossier, se vogliamo, molto scomodi ma anche pieni di sofferenze per queste popolazioni, che si spera un giorno portino a una vera compensazione equa.